sono delle cose che ci teniamo per noi. Non sempre sono segreti indicibili. Non sempre sono cose spaventose. Sono solo cose che dentro di noi stanno talmente vicino a quel posto che nemmeno noi conosciamo, che semplicemente preferiamo che gli altri non ci guardino dentro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 e l'Epifania. Sono Matteo Caccia e sono qui. Che cos'è un tabù? Dunque, secondo il dizionario, un tabù è un divieto. È il divieto di fare certe cose o di pronunciare parole o avere rapporti con persone considerate sacre. Per estensione, quindi, diventano un tabù la cosa e la persona stessa che sono oggetti di tale divieto. Ecco, leggendo questa definizione prima mi è sembrato evidente che le parole chiave di questa frase fossero due, e cioè sacro e divieto. È strano come tutto ciò che viene considerato sacro sia legato ad un divieto, ma anche come qualsiasi divieto renda le cose sacre. E sempre le cose sacre sono intoccabili. Ci sono un sacco di divieti, ci sono divieti imposti da altri, divieti dettati dalle necessità del vivere sociale e divieti che ci imponiamo noi. Persone che decidiamo di non frequentare, posti in cui non vogliamo ritornare, lavori che non penseremmo mai di fare. E non ci pensiamo nemmeno, ma tutti quelli diventano dei tabù. Per non parlare invece di quelli che ci vengono imposti dagli altri, dalla famiglia, dai genitori, dalla moglie, dal fidanzato. Non toccare l'argenteria, non andare con un'altra, non entrare in quella stanza, non iscriverti a Facebook. Non c'è niente di più invitante che vietare. Io ho infranto il mio primo tabù a 13 anni, quando salii su un motorino che non era il mio e che non potevo guidare perché i miei ne erano terrorizzati e me l'avevano vietato. Poi ho infranto il tabù della ex fidanzata dell'amico che fino a quel momento era sempre stata intoccabile. Poi ho infranto il tabù del lavoro, che doveva essere serio, doveva essere duraturo, e me ne sono scelto uno, aereo e a scadenza. Lo scorso anno sono tornato in un posto in cui mi ero ripromesso di non tornare mai più. E sapete cosa? Alla fine, dopo essere passato attraverso questi divieti, piccoli o grandi, io mi sono sempre sentito un po' meglio e un po' no. Ci sono cose che regalano insieme un senso di libertà affogato nel senso di colpa. Ecco, sono poche le cose che fanno questa cosa. Sono poche le cose che regalano un senso di libertà affogato nel senso di colpa, come infrangere un tabù, come fare qualcosa che non dovremmo fare. L'ultimo tabù che mi sono trovato davanti è apparso ieri, ha la forma di un baule di legno e non si può aprire. Non so quale sia stato il vostro tabù infranto, il divieto più grande che non avete rispettato. Beh, qualunque esso sia, se avete voglia di raccontarmelo, io sono qui. E il numero è sempre quello, anche il giorno dell'Epifania, è 80024 0024 per chiamare in diretta, oppure 349 238 6666 per mandare un SMS. C'è invece anche un profilo Facebook che si chiama Matteo Caccia, io sono qui, dove mi sono arrivati questi messaggi a proposito di tabù infranti. Chiara mi scrive: il mio tabù erano gli uomini più giovani di mio fratello più piccolo. Chiara, mi sembra di capire che o tuo fratello è cresciuto oppure semplicemente l'hai rotto. E poi Sashi, non so come si lega questo nome, non so nemmeno da dove arriva, è scritto S-A-C-H-I, se qualcuno lo conosce o la persona stessa ne è autrice magari mi dice come si legge e magari da dove arriva questo nome. Il tabù più grande mai insegnatomi era che da brava ragazza dovevo aspettare che fosse lui a fare il primo passo, altrimenti si passava per una facile e troppo disponibile. Ancora Elisa, tabù più semplici: avevo detto io su Facebook mai. Le ultime parole famose: 80024 0024 349 238 6666. È l'Epifania. Probabilmente avete la pancia piena, non solo da oggi, ma di tutte le vacanze. E probabilmente avete infranto un tabù, magari anche di recente, o magari no. Se però l'avete fatto, provate a pensarci un attimo, provateci 5 secondi. Provate a pensare a quel posto in cui vi eravate ripromessi che non sareste mai più tornati. Ma non si sa il perché non c'eravate andati con lei, magari, o c'eravate stati con lui, e quindi era stato bandito dal vostro immaginario. Quel posto basta. E poi invece no, ci siete tornati e quel tabù è svanito. Ci sono stati magari dei lavori che pensavate che non avreste mai fatto e vi eravate imposti di non farli mai. E poi invece, boh, sarà perché le cose succedono, sarà perché a un certo punto è anche giusto dire basta con le cose che si pensa di fare o di non dover fare, e le si fanno e basta. Oppure ci sono dei desideri che sono dei tabù, delle cose che non avevate nemmeno il coraggio di pensare che si potessero desiderare. provateci a pensare un attimo. Ci sono delle cose che forse solo perché sono dei desideri, sono desiderabili, quasi sono imbarazzanti da pensare. Ecco, tutti quelli sono i tabù. E se li avete infranti, 80024 0024 oppure 349 238 6666. Anna mi ha scritto un messaggio questa mattina, che è un messaggio che ha veramente a che fare con un tabù che più che un tabù personale è proprio un tabù, direi, sociale, chiaramente. E questo qua. Il tabù l'ho infranto a 19 anni e tra tutti è stato decisamente il più grande. Mi innamorai senza possibilità di scampo di un ragazzo molto bello, intelligente e divertente. Un tipo a posto, insomma. La seconda volta che uscimmo insieme mi baciò. Al terzo appuntamento non si presentò. Al quarto invece si sedette sul divano accanto a me e mi disse: «Vedi Anna, io non posso stare con te perché ho un problema. Sono qui adesso, posso vivere, ma posso anche morire. Sono sieropositivo». Lo guardai, gli dissi che se mi stava dicendo quello per informarmi che era giusto e doveroso, se pensava che questa notizia mi avrebbe fatto scappare, si sbagliava, io non sarei scappata. Era il 1993, a quei tempi alla sieropositività si associava la sua sigla stridente che dava fastidio a tutti. Io, di famiglia molto semplice, molto tradizionale, brava ragazza, studentessa modello. È stato un tabù che ho infranto da sola, senza parlarne con nessuno, e non me ne sono pentita mai. 80024 0024 349 238 6666. Qualsiasi tabù abbiate infranto, che sia stato vostro, autoimposto o imposto da qualcun altro. Io la prima volta che ho sentito parlare di tabù, è stato quando mi hanno raccontato una fiaba. Ero piccolino e mi ricordo che quella fiaba mi spaventò moltissimo. Ecco perché se ci sono dei bambini all'ascolto, forse adesso è il caso di spegnere la radio. C'era una volta un uomo tanto ricco quanto brutto. Egli possedeva palazzi in città, ville in campagna, scuderia piena di cavalli, forzieri colmi di monete d'oro, ma aveva la barba blu. Una barba che gli dava un aspetto così terribile che tutte le ragazze scappavano non appena lo vedevano. Egli aveva già chiesto la mano di parecchie fanciulle, poiché desiderava sposarsi, ma tutte lo avevano rifiutato. Tuttavia, egli non si stancava e continuava a cercare moglie. Nella sua stessa città viveva una gran dama che aveva due figlie molto belle e Barba Blu, tutti lo chiamavano così, ne chiese una in sposa. Non gli importava se la maggiore o la minore, solo una in sposa. La gran dama esitò, ella aveva anche due figli maschi ai quali avrebbe voluto preparare l'avvenire, ma rimasta vedova era caduta in povertà. Un matrimonio con un uomo ricco come Barba Blu sarebbe stata la fortuna per tutti. Non volendo forzare la volontà delle sue ragazze, le lasciò libere di accettare oppure no. Ma nessuna delle due si sentiva il coraggio di compiere quel passo. Tanto più che, si diceva, Barba Blu era già stato sposato altre volte, ma non si sapeva dove le sue mogli fossero andate a finire. Allora Barba Blu incominciò a coprire le due ragazze di regali, fiori, gioielli meravigliosi. Le invitò insieme alla madre in una sua villa dove per una settimana si susseguirono feste da ballo, battute di caccia, banchetti. Infine, la figlia minore concluse che quell'uomo non aveva poi la barba tanto blu e in 448 decise di sposarlo. Le nozze furono celebrate con grande sfarzo e la sposina si sentì molto orgogliosa quando poté mostrare alle sue amiche il meraviglioso palazzo dove abitava. Poi un giorno Barba Blu annunciò a sua moglie che doveva assentarsi da casa per alcuni affari. Tuttavia desiderava che nel frattempo lei si divertisse con le sue amiche e le invitasse a palazzo. «Ti lascio le chiavi di tutte le porte, di tutti i forzieri, di tutti gli armadi», disse togliendo di tasca un tentinnante mazzo di chiavi. «Adopera come vuoi il servizio di vasellami, le posate d'oro e d'argento, fruga nei ripostigli e saccheggia la dispensa. Ma l'unica porta che non dovrai aprire è quella che corrisponde a questa piccola chiave d'oro». «Sì, va bene, vi giuro che non l'aprirò». «Se mi ubbidirai e avrai fiducia in me, non te ne pentirai. E dammi retta perché sarà per il tuo bene e anche per il mio». Così dicendo consegnò il mazzo di chiavi alla moglie. Questa ebbe subito una grande curiosità di vedere che cosa si nascondesse nel misterioso stanzino. Tuttavia promise di essere ubbidiente e di adoperare tutte le chiavi meno che quella d'oro. Barba Blu salì in carrozza e partì. Subito dopo la ragazza invitò sua sorella Anna e tutte le sue amiche ad andare a farle visita. Invitò anche i due fratelli. ma questi promisero che sarebbero venuti soltanto giorno dopo. Il corteo delle ragazze, con la sposina in testa, percorse le sale e le gallerie del sontuoso palazzo, e di continuo risuonavano degli «oh» di meraviglia davanti alle ricchezze che venivano alla luce. Tazze di diaspro e di cristallo, piatti d'oro e d'argento. Finalmente non restò più da visitare che lo stanzino in fondo alla galleria. La sposina esitò parecchio, stringendo tra le dita la chiave d'oro. Poi pensò che fosse meglio lasciar partire le amiche. Così, rimasta sola, avrebbe potuto soddisfare la curiosità, senza che nessuno se ne accorgesse. Infatti, dopo i convenevoli, la sorella andò a dormire e la sposina poté dirigersi, senza fare rumore, verso la stanza misteriosa. Ieri sera mi sono sentito la sposina mentre Nathalie era barba blu. Sono tornato a casa dopo la diretta. Lei stava sistemando le cose che aveva portato da Varese. Continua a sembrarmi un po' strano stare in una casa che non è la mia con una persona che conosco poco. Però alla fine ci sto facendo l'abitudine. Quando sono entrato in casa, Nathalie stava cercando di fare un buco nel muro con un trapano due volte più grosso di lei. Io sono arrivato e mi sono finto esperto di buchi col trapano. Ho sempre la sensazione che le donne, quando parlano degli uomini e di quello che gli uomini non hanno voglia di fare, parlino sempre di due cose, del sesso e del lavoro in casa. Quindi faccio di tutto per smentire questi due luoghi comuni, o almeno ci provo. Ho attaccato un pezzo di scotch sul muro per evitare che cadessero troppi calcinacci durante la perforazione, ma non è servito a nulla, visto che mentre facevo pressione per far entrare la punta dell'otto che non voleva entrare, a un certo punto qualcosa all'interno del muro doveva aver ceduto e io mi sono trovato dentro al muro quasi con tutto il trapano. Nathalie si è messa a ridere e quando ho estratto la punta insieme a quella ho tirato via tonnellate di polvere che sono finite per terra. Lei mi ha detto di non preoccuparmi, che è una cosa che mi ha anche molto confortato, visto che uno dei miei tabù ha a che fare proprio con il fare dei danni in casa. Per questo ho cercato di rompere distruggendo i vetri di casa mia. È una cosa che mi porto dentro da quando ero bambino. Che poi tutto probabilmente è una cosa che ci portiamo dietro da quando siamo bambini. Comunque, io le ho detto di no, che il danno l'avevo fatto io e che toccava a me riparare. Quindi ho preso una scopa e ho spostato una cassa che era proprio sotto il buco che avevo perforato. Appena l'ho toccata, lei mi ha fermato e mi ha detto «No, no, lascia, a quella ci penso io». Era un baule di legno, di quelli che di solito ci sono nelle case dei genitori, perché all'IKEA un baule così non lo vendono. O forse sì, ma non fatto in quel modo lì. Perché il baule è scomodo per stiparci la roba. La ammassi dentro senza una vera logica, quindi non se ne vedono molti. Io ne avevo uno simile di mia nonna, in cui ci infilavo dentro la biancheria sporca prima di metterla in lavatrice, solo che alla fine aveva un odore insopportabile e l'ho dovuto sterilizzare. Anche questo sembrava un baule un po' vecchio, o antico, se preferite. Uno di quelli che compri in un negozio di antiquariato, o che erediti da un parente. Aveva una leggera sbeccatura alla base, vicino al terreno, e il legno aveva bisogno di un po' di olio, sembrava molto secco. Lei ha preso il baule per una maniglia laterale e l'ha trascinato in mezzo alla stanza. Io allora ho sollevato le braccia, come dire, guarda, tranquilla, non lo tocco. Lei si è fermata, con ancora la maniglia stretta tra le mani. L'ha mollata, ci si è seduta sopra e mi ha guardato con gli occhi leggermente socchiusi. Sembrava concentrata, come quando ci si concentra per dire le cose che uno deve dire perché ne sente il bisogno. Mi ha detto che dentro quel baule c'erano delle cose sue. Nulla di che, solo cose sue. E mi chiedeva di non guardarci dentro. Non l'avrebbe chiusa a chiave, perché non era il caso, solo mi chiedeva di non guardarci dentro. Io ho fatto un sorriso e le ho detto, un po' come la favola di Barba Blu, insomma. Sposina infilò la chiave nella toppa, la girò dolcemente, entrò e... orrore! Un grosso cespo ancora insanguinato e una scura affilata gettata sulla paglia stavano a dimostrare che in quello stanzino si entrava soltanto per morire. Ora sul ceppo ballavano i topi, ma in un angolo giacevano diversi corpi di donne. tutte con la testa tagliata. Le mogli scomparse di Barba Blu. Inorridita, la sposina si portò le mani agli occhi per non vedere più, ma in quel gesto la chiavetta le sfuggì di mano e cadde in una pozza di sangue. La raccolse e fuggì via, dopo aver richiuso accuratamente la porta. Poi si rifugiò in camera sua, tremando da capo a piedi. Guardò la chiavicina maledetta e vide che era sporca di sangue. Subito cercò di asciugarla e di pulirla, ma non vi riuscì. La chiave era fatata e le macchie di sangue, cancellate da una parte, ricomparivano da un'altra. Atterrita, pensava di fuggire dal palazzo, ma proprio quella notte Barba Blu vi fece ritorno. Natalia è uscita e io mi trovo ovviamente davanti a questa cassa in legno. È ovvio che anche se ho 35 anni è come se ne avessi 7, e quindi se tu mi dici per piacere non aprire quella cassa, adesso io ho un unico pensiero in testa, che è aprire questa cassa. Si è già trasformato in un tabù praticamente, che è quella roba lì è intoccabile. È una cassa in legno, è un baule, più che una cassa, sì, direi in legno. È in legno scuro, è leggermente speccata in un angolo. Non so nemmeno che legno sia. Non dovrei nemmeno toccarla, visto che prima mi ha detto lascia stare, la sposto io, però lei non c'è, quindi non lascio segni, quindi posso toccarla. Alla parte sopra che è leggermente bombata, il coperchio è bombato e invece i fianchi sono dritti. Ha due maniglie laterali per prenderla, una destra, una sinistra. Non riesco nemmeno a capire se è piena o vuota. Vabbè, io provo a sollevarla. Non ho idea di quanto possa pesare. Rimane che è una cassa che io non posso aprire. Io sono qui. 800 24 0024 349 238 6666. Chissà perché alla fine, i tabù hanno sempre a che fare con la sessualità. Tra me e lui c'è sempre stato feeling, ma è mio amico da una vita ed io sono fidanzata. Non avrei mai potuto tradire quell'amicizia, ma poi ci sono cascata. Siamo andati oltre. Ma poi tutto torna come prima. Ma poi tutto torna come prima. Io ho la mia vita e lui ha la sua. Una piccola isola sulla quale rifugiarsi in certi momenti belli, perché entrambi sappiamo che poi finiranno. 800 24 0024. Ci sono dei tabù. Alla fine ho letto da qualche parte che il tabù è come un piccolo posticino. È una stanza in cui noi cerchiamo di non entrare. E poi qualcosa ci fa entrare in quella stanza, proprio come la moglie di Barba Blu. E quello che troviamo alla fine è quasi meno importante. È più importante il fatto che abbiamo aperto quella porta. 349 238 6666. Accettare l'avance del mio miglior amico all'insaputa del mio ragazzo Silvia. Amo! Ehi, tutto così? A parte che, quant'è che accettano l'avance degli amici? Di solito si dice sempre che gli amici no. Manco Rudy è d'accordo. Dopo tanti anni come ospite ossequiosa, ho mangiato l'ostia senza essere battezzata un certo 2 di novembre a Santa Maria Maggiore. Ciao Francesca. Ah, vedi, sesso e religione. Dopo 10 anni di matrimonio l'ho cornificato. Amo. Ma che soddisfazione! E per qualche ora mi sentivo libera, anche se con dei grossi rimorsi. A distanza di anni, ora divorziata, ricordo con tenerezza quei momenti. Daniela, ancora Michele mi scrive: da piccolo credevo che i tabù fossero le liquirizie. Vabbè, è un po' come quando senti una canzone in una pubblicità e la riconduci solo a quella pubblicità lì e non al fatto che è stata scritta e cantata da qualcuno. Le liquirizie quelle piccole e nerissime. Ora i tabù sono sempre neri e mal digeribili. Io sorrido ai miei tabù. Ne ho e il più delle volte me ne compiaccio. Non so se sono tanti o pochi, se sono o meno minacce per la mia evoluzione, per conoscermi. Alcuni li ho infranti, altri no. Io non credo che siano minacce che hanno a che fare con la propria evoluzione. Credo semplicemente siano delle cose che ci arrivano da fuori o da dentro, che ci impediscono di provare a fare delle cose. Tra me e lui c'è sempre stato feeling. Ah no, questa è quella di prima. Niente, anche perché basta con i tradimenti dei fidanzati con gli amici. E ancora, anche a me è successo come alla sposina. Poi il mio Barba Blu si è tagliato la barba e stiamo continuando. Finora tutto ok, molto bene. 800 24 0024, 349 238 66 66 66. Mi è arrivato ieri un messaggio sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia, io sono qui, di una donna, di una ragazza, insomma, che mi raccontava a modo suo il suo io sono qui, e cioè mi mandava una foto e mi spiegava più o meno dove si trovava. La foto la trovate sul profilo, è una foto che sembra più Disneyland più che la Turchia, però vi racconto, vi leggo il messaggio che lei mi scriveva. Ciao Matteo, io sono qui. Ho vissuto in Svizzera tedesca fino a un anno fa, ma ogni volta che vado in Italia ascolto Radio 24. Dopo 30 anni di lavoro, centinaia di migliaia di chilometri, 18-19 ore di lavoro al giorno, l'azienda tessile per cui lavoravo ha chiuso nel 2009. La tragedia non era la chiusura, ma il modo in cui è stata fatta. Mi occupo di tessile, creo filati e tessuti che poi presentano alle fiere tessili di tutto il mondo, agli stilisti e agli uomini delle maison di alta moda. Quindi sono sempre in giro, da New York a Tokyo, da Parigi a Milano. In più le visite direttamente ai clienti. E proprio durante uno di questi viaggi, mentre presentavo i nuovi prodotti ai clienti, il 22 di dicembre del 2008, sono stata informata che la società a gennaio avrebbe chiuso. È stata una tragedia non solo per la chiusura, ma anche perché ho dovuto spiegare per quasi 8 mesi ai miei partner il perché non potessi consegnare a gennaio il materiale che avevo presentato a dicembre. Dopo quasi, e qui viene la cosa interessante di questo messaggio, dopo quasi un anno di ricerca di lavoro in tutta Europa e dopo aver spedito 145 curriculum e ricevuto altrettante risposte negative perché ero troppo vecchia, troppo qualificata, troppo cara, ho trovato lavoro come consulente in un'azienda di Antalya, in Turchia. Ora, dopo tanto patire e cercare, dopo tante delusioni, io sono qui, con speranze e nuova energia. Mi dispiace non sentirti in diretta perché in Turchia non ci riesco, però tutte le sere mi ascolto via internet e mi fa sentire meno lontano dalla mia Lugano. Saluti da Antalya, Desi. Questo Io Sono Qui mi sembrava un bel modo per raccontare un po' anche dove siamo tutti noi in questo periodo. Ora la borsa e poi 800 24 0024, Io Sono Qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in una cantina. Così, a naso direi. Il protagonista della foto è un bel signore. È un bell'uomo. Se mi dicono che non siamo in una cantina dall'altra parte del vetro, siamo in una soffitta, va bene, però io non lo so, sembra una cantina questa, andate a vederla, c'è sul sito la foto, no? radio24.it, la pagina Sono Qui, proprio. Va bene, allora siamo in una soffitta, ricominciamo da capo, siamo in una soffitta nella foto, siamo in una soffitta e il protagonista però è sempre questo bell'uomo con un cappelluccio in testa inguardabile, ma ora dico, se sei da solo in soffitta va bene, però se devi farti una foto toglitelo questo cappelluccio, Alessandro, comunque è molto coperto quindi fa freddo. E ha in mano un flute, direi, o comunque un bicchiere di un liquido rossastro che direi è qualcosa di molto dolce, molto alcolico, e di fianco a lui una specie di... non lo so. Alessandro Moncini, 41 anni, fuori sta ancora nevicando, mi trovo nella soffitta di casa a Larciano, in provincia di Pistoia, e ho appena finito di murare il caratello del Vinsanto. Io sono qui. Ok, allora ci siamo. Grazie Alessandro per la foto e per il cappelluccio che ci regali, soprattutto nella foto. Il caratello del Vinsanto. Ho scoperto, grazie a Guido Scotti, che il caratello del Vinsanto, che è una specie di botte, poi nient'altro che una botte, è un vaso, caratello. È un vaso da vino o da altro liquore. Usualmente si intende un piccolo vaso di legno a forma di botte, ma esteso maggiormente in larghezza rispetto che in lunghezza, di capacità variabile tra 25 200 litri. Veniva usato oltre che per il trasporto di vini e di liquori per conservare e spedire pesce salato. Questo uso era in voga nella città marinare, va bene. L'etimologia sembra essere attribuita al latino carrus oppure al greco keration, cioè corno per la sua forma allungata. Oggigiorno, e appunto siamo alla nostra foto, viene utilizzato soprattutto in Toscana per la produzione di Vinsanto. Io sono qui, @radio24.it oppure Matteo Caccia, io sono qui sul profilo Facebook per continuare a mandare le vostre foto dove vi trovate, dove vorreste essere o dove siete con il cuore e con la mente, come Alessandro che ha la sua bella faccia da alcolizzato e il cappelluccio da marinaro, alcolizzato, Alessandro, con tutto il rispetto per un uomo come te che beve del Vinsanto. Visto che però qualcuno l'ha inaugurato ieri, era Michele a Puzzo, ho detto Marco, invece era Michele, l'ha inaugurato lui, ma è sembrata a tutti un'ottima idea. L'usanza di provare a raccontarci dove siete non solo attraverso le foto. Ci sono delle cose, a me capita abbastanza spesso, che ossessivamente facciamo e ripetiamo, no? Per cui a me capita che mi piace una canzone e l'ascolto come un'ossessione per tutto il giorno, per tutta la settimana, per tutto un mese. Ecco, effettivamente quando ascolto, quando faccio quella roba lì, io in un modo o nell'altro mi trovo lì. E visto che ieri Michele ci ha mandato un brano musicale e ci ha scritto Io sono qui, questa cosa ci piace che continui. Uno. Questo è un brano che ha... non ho capito se l'ha attaccato da qualcuno oppure se l'ha attaccato Maria Lucia, che ci ha mandato Maria Lucia, e che è un pezzo tratto da un film che si chiama Band Apart. Let's dance, little stranger, show me secret sins. Love can invece sono i Nouvelle Vague. Evidentemente Maria Lucia si sente di essere anche in qualche modo qui. Qualcuno l'ha già fatto, io vi invito a continuare a farlo. Matteo Caccia, io sono qui, è il profilo Facebook dove andare a postare i video. È molto... sapete come farlo, immagino, no? Andate su YouTube, linkate e lo buttate lì. 800240024 oppure 349-238-6666. Allora, ci sono dei tabù che in qualche modo avete infranto. E uno, ecco, questa è una roba da non fare, che riguarda i parenti, che riguarda i genitori in generale. Ho letto il diario di mia sorella, da quel giorno la vedo con altri occhi. Beh, i tabù sono anche contrari all'evoluzione, forse il più antico in assoluto è l'incesto. Siamo sempre in campo sessuale, che come religioso sono legati al mistero della vita. L'antropologia è qui. 800240024, visto che si parla di tabù sessuali e religiosi, io andrei a sentire Fabio da Lucca. Pronto Fabio? Sì, pronto, buonasera. Ciao. Dottor Caccia. No, dottor Caccia no, ti prego Fabio. Va bene, signor Caccia. Va bene Matteo. Va bene, Matteo, buonasera. Buonasera a te, Fabio. Cosa stai facendo, Fabio, in questa giornata di festa? Allora, mi sto dirigendo a Livorno perché faccio parte di una squadra di basket come massaggiatore e sto andando alla partita. Ma e che partita avete? Abbiamo la partita del campionato C2 di pallacanestro. Uh-huh. Giochiamo contro Livorno. E come siete messi in classifica? Siamo terzi insieme a un altro gruppetto di squadre. E Livorno invece? Livorno è quinto, sesto circa. Ah vabbè, quindi dai, dovrebbe venire via facile, no? Ma ci abbiamo sempre perso, speriamo che oggi sia la svolta buona anche in un giorno di festa come il giorno della Befana. Ve lo auguro. Fabio, senti, mi pare Grazie. Che tu voglia parlarci del tabù dei tabù. Sì, io sono un po'... magari, non lo so, forse esco un po' dal campo. Con parole tue. Sentivo le varie storie di sessualità, di incesti, eccetera, sì. eccetera. Io invece Cosa vorrei, manca? La mi piacerebbe, sì, mi piacerebbe parlare con toni pacati, perché bisogna portare sempre rispetto anche nella contrarietà. Bravo. E in quello che non si, magari non si, sì. non ci si sente a pancia. Con l'altra dimensione che sia davanti, io sì. sto parlando del Vaticano. Oh, ci siamo arrivati. Esatto, del Vaticano. Io sono un cattolico che frequenta le chiese, sì. Però una mia fede personale, anche profonda. Senti, ma in quale modo il Vaticano rappresenta un tabù, Fabio? Scusami. Ma secondo me ci sono tante storie non raccontate in maniera realistica e secondo me anche a volte in maniera sotterranea, mi passi l'espressione. Cioè, nel senso, scusami Fabio, che fondamentalmente non si può parlare del Vaticano, non si può affrontare quello che esce dal Vaticano, questo vuoi dire? Esatto, anche dalla parte politica e non... Però dai, alla fin fine, scusami, a parte che di solito questo si affronta in altri argomenti e ci pensa Cruciani a questa roba qua, però non mi pare, mi pare che ciascuno, insomma, quando possa dire la sua, no, rispetto alle uscite che fanno in quella zona di Roma. Ma io personalmente vedo una certa, anche qui mi passi l'espressione, una certa retorica spesso nell'affrontare argomenti che magari elargisce lo immagino, il Vaticano sotto forma delle parole del Santo Padre. Chiaro. Fabio, senti, scusami, tu nonostante tutto sei cattolico e quindi diciamo i tuoi tabù ce li avrai pure tu. Diciamo che prego molto, prego in aramaico, la lingua originale di... Ma tu cosa fai nella vita, Fabio, oltre al Gesù. Massaggiatore... Ma io sono un operaio e poi sto cercando di trasformare la mia vita per quello che è il lavoro che mi sento a pelle, cioè il massaggiatore e affini. E dove l'hai imparato l'aramaico, scusami? L'aramaico è stato un fulmine a ciel sereno da quando ho visto La Passione di Mel Gibson, il film. Sono stato letteralmente folgorato da questa lingua, secondo me, molto... musicale, molto profonda e molto bene. Spirituale. Fabio, senti, ti auguro una buona epifania e soprattutto un in bocca al lupo per la partita. Grazie. Ciao, buona giornata, grazie. Tanto. tanto a voi e a tutta la redazione, grazie. Lo farò, grazie. Sì, effettivamente fare il massaggiatore perché lo senti a pelle non è male, così come pregare in aramaico. Ma tutto il giorno della Befana. Allora, un tabù vero non è tradire la tua donna con una sua amica, ma tradirla con il suo migliore amico del cuore. Eh? Solo io non l'ho capito. 800240024 349-238-6666. Visto che si parla di tabù e purtroppo non abbiamo molto tempo a disposizione, in momenti come questi ho bisogno di sentire una voce che sento amica e che obiettivamente uso un pochettino come ormai come consigliere, un po' al metrapensiero di questo programma. Lui è il signor Giacomo da Catania. Pronto, Giacomo? Ciao Matteo. Come stai? Ma diciamo che stavo vedendo anch'io la mia partita contro la Roma, che è 2-2, però ci sono cose diciamo da discutere molto più importanti. Molto più importanti, bravo, bravissimo. Fanno parte dello scibile umano. Quindi, cioè, questo come dire, che quando Radio 24 chiama, Giacomo risponde. Bravo, perfetto, perché si discute di argomenti. Certo, che sono fondamentali, come proprio come l'argomento dei tabù. Giacomo, tu hai qualche tabù personale? Il tabù che diciamo non affronto mai, perché in effetti è un tabù, è della omosessualità. Cioè? L'omosessualità fa parte di un sistema misogino dell'uomo che c'è. Tutti si atteniscono contro gli omosessuali. Sì. Qualche volta beh, l'ho fatto tutti. Anch'io. Ah, pure tu, Giacomo? Però, anche tu? Sì, forse quando ero ragazzo, purtroppo, perché sono stato, diciamo, disturbato da una persona. Ho capito. Che mi ha lasciato una mare in bocca da allora, sì. Da quando avevo 12 anni, 11 anni. Purtroppo quello lì, ecco, è un tabù. Ho capito. Senti, però tu, bisognerebbe parlare i figli, cioè i genitori con i figli, e i figli dire ai genitori quello che gli succede. Magnifico. Per loro un altro tabù che è enorme, insormontabile, a distanza da quando mi è successo a me, diciamo 53 anni fa, sì. 54 anni fa. Succede anche adesso. Certo, immagino. La storia purtroppo si ripete e il tabù dovrebbe essere, diciamo, rotto tra genitori e figli. Giusto, Giacomo. Senti Giacomo, fammi capire una cosa. Hai passato l'Epifania in famiglia, ovviamente, come era usanza. Logico. Com'è andata? Cosa hai mangiato, Giacomo? Ma in effetti, guarda, ho mangiato lasagne fatte con ricotta, spinaci. Magnifico. Giacomo, buone, senti, cioè, solamente questo qua ha fatto di primo e di secondo. Io ti ringrazio, ti devo dare una brutta notizia però, è che la Roma ha segnato il terzo gol e quindi il Catania sta perdendo. Io l'ho visto, sono senza audio nel tempo che l'ho visto. Un gol è stato viziato, quello della Roma, il secondo. Lo immagino. Giacomo, stato viziato dalla palla che era uscita fuori. Lo so, ti devo salutare, ne parla poi Carlo Gentari di tutto ciò. Grazie mille, buona giornata. Ciao Giacomo. Sì. Ciao, grazie. A risentirci. Andiamo ad Antonella da Venezia, l'ultima telefonata di oggi. Pronto, Antonella? Ciao, pronto. Ciao, raccontami qual è stato il più grande tabù che hai infranto. Penso molto grande, una grandissima storia d'amore durata 5 anni con un ragazzo di 27 anni più giovane di me. E quanti anni hai tu, Antonella? Io ne ho 53. E quando è accaduta questa cosa? È finita 3 anni fa, ma è durata 5 anni ed è stata la storia d'amore più grande della mia vita. Senti, quindi scusami, per evitare di farmi fare calcoli, tu quando l'hai conosciuto ne avevi? E lui io ne avevo 47. E lui ne aveva? E ne aveva 21. Ustia! Non lo sapevo, pensavo ne avesse un po' di più. Sì, si dice sempre così, Antonella. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma io scusami, scappavo, lui mi rincorreva e mi prendeva, cosa devo fare? Com'è accaduto, scusami? È accaduto che ero in vacanza, sì, in un paese arabo, sì, e così. Ho capito. Ci siamo scambiati un po' di parole, ci siamo conosciuti. Insomma, hai preso la chiave della stanza di Barba Blu e ci sei entrata. Ma tu pensi, ma tu sono pensi. Andata a vivere là 5 anni, eh? Ah, là dove? Là, in Tunisia. E com'è andata? È andata che poi la famiglia me l'ha portato via, l'ha fatto sposare con una cugina. E tu adesso cosa fai, Antonella? E io adesso sono disperata, ma non importa. Però mi piace la leggerezza della tua disperazione. Ti auguro una buona serata. Grazie, ciao, buon Antonella, lavoro, grazie ciao. Mille. L'ultimo sms di oggi, e siamo sempre lì. Ho fatto sesso con mia cugina, ormai 5 anni fa. Non ne abbiamo parlato più, ma non ci vediamo praticamente mai. Davide. E c'è un ultimo racconto con cui voglio chiudervi la puntata di oggi. È uno di quelli che mi mandate a iosonoqui@radio24.it, visto che mi piacciono tanto, mi piace anche leggerveli. Mano destra, mano sinistra, si intitola. Da piccoli a un certo punto impariamo tutti, chi istintivamente, chi costretto, chi per imitazione, a individuare nella nostra mano destra lo strumento migliore per l'azione, il fare, prima manuale e poi anche intellettuale. La scrittura è quell'atto di affermazione della propria identità che è la firma. La mano sinistra diventa il supporto per la destra. Per esempio, tiene l'oggetto sul quale interviene con la destra. Impara a non prendere iniziative autonome, aiuta la destra o la sostituisce quando questa è impegnata in compiti più importanti. Mentre scrivo sulla tastiera del computer, tento un piccolo esperimento. Mi metto a scrivere solo con la sinistra, poi solo con la destra. La differenza è enorme. Mentre la sinistra arranca, la destra è lì che scalpita, che dice dai, sbrigati, mi fai perdere un sacco di tempo. Poi, quando tocca la destra, da sola e la sinistra sta a guardare, ancora ferita dal rimprovero, succede che la prima cerca di dimostrare che ce la fa. Anche da sola, ma non è vero. Ciò che racconto lo sto facendo mentre scrivo. È un'esperienza piccola ma significativa. Adesso va che è una bellezza. Le mani scorrono veloci sulla tastiera, anche se non addestrate dalle tecniche di dattilografia. Anche il suono e il ritmo che produce la tastiera è più gradevole e musicale. Francesca. Grazie a te, grazie Francesca. Grazie a Tiziano Bonini, a Guido Scotti e a Fabio Rudi Cantadori. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?